La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate alla rassegna stampa settimanale di Radio Wombat, mensile per me, visto che il mio gruppo se ne occupa una volta al mese, esatto. E quindi, infatti, siamo la prima settimana di luglio, il 2 luglio oggi, in particolare, se mi state ascoltando in diretta oppure chissà se mi state ascoltando in replica, nelle nostre repliche che vi ricordo sono il mercoledì e il già non me lo ricordo più e il venerdì, esatto, all'ora di pranzo e all'ora di cena più o meno, quindi a mezzogiorno e alle 19, un po' prima e un po' dopo i pasti. Quindi rassegna stampa mensile che vi dà conto della scorsa settimana, ovvero dell'ultima settimana di giugno, di quello che è successo. Come sempre la rassegna stampa, almeno nella mia versione, non andrà a guardare i quotidiani nazionali mainstream di cui siete già probabilmente abbastanza al corrente o che comunque non hanno bisogno certo di me e dei microfoni di Radio Wombat per essere conosciuti, ma invece andrò a indagare un pochino alcune altre fonti a noi più vicine, sicuramente più simpatiche e a noi più affini. Cominciamo subito da Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, allora, abbiamo guardato un pochino le cose. Ah, tra l'altro oggi sono da sola, ascolterete soltanto la mia voce, fatevene una ragione, perché i miei baldi giovani amici e colleghi di trasmissione mi hanno abbandonato e sono in vacanza, beati loro, li saluto, ma che devo fare? Quindi sono da sola, spero che vi possa bastare la mia voce. Allora, dicevamo, Radio Onda d'Urto, tra le varie cose che Radio Onda d'Urto ha raccontato sul suo sito, che abbiamo, cioè, attraverso i suoi microfoni, e che poi noi, non stando in quel di Brescia, abbiamo potuto guardare attraverso lo streaming o attraverso i podcast, che anche voi potete trovare sul loro sito radioondadurto.org, tra le varie cose abbiamo trovato una triste notizia con cui iniziamo subito, giusto per farcela prendere malissimo, ovvero le condanne ai Notav, condanne di primo grado ancora, quindi insomma non è ancora detta l'ultima parola, però ahimè una notizia non in attesa ma non per niente lieta. 6 attivisti condannati in primo grado a 3 anni e mezzo. Vi leggo l'articoletto e poi c'è un'intervista che ci andiamo ad ascoltare. La mattina di venerdì 29 giugno, 6 attivisti Notav sono stati condannati in primo grado a 3 anni e mezzo di reclusione dal Tribunale di Torino per l'azione notturna al cantiere di Chiomonte del 5 settembre 2015. Ve lo ricorderete, ahimè, cioè, azione che ce la ricorderemo per un po', visto appunto il processo che ne è derivato. Azione notturna al cantiere durante la quale 8 Notav vennero fermati e tradotti in carcere, dal quale uscirono dopo pochi giorni per essere sottoposti a misure cautelari meno rigide, protrattesi poi per diversi mesi. E l'intervista di Radio Onda d'Urto è a Valeria, compagna del centro sociale Scatassuna e una Notav. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare in realtà per intero, perché è un intervento abbastanza breve, di 5 minuti e 22 secondi, quindi ce la possiamo ascoltare per intero. Eccola qua. Radio Onda d'Urto, 6 attivisti del movimento No Tav della Valsusa sono stati condannati in primo grado questa mattina a 3 anni e mezzo di reclusione dal Tribunale di Torino per un'azione notturna al cantiere di Chiomonte del 5 settembre 2015. Con noi in collegamento Valeria, compagna del centro sociale a Scatassuna e militante No Tav. Innanzitutto, ciao Valeria. Ciao, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Io partirei intanto dal raccontare cosa è successo la notte del 5 settembre 2015 al cantiere di Chiomonte. Sì, la notte del 5 settembre 2015, durante un'iniziativa sorpresa notturna al cantiere, la polizia uscì dal cantiere e arrestò 8 militanti compagni Notav e li trasferì in carcere alle Vallette. Venimmo poi nel giro di un paio di giorni scarcerati con delle misure cautelari che prevedevano l'obbligo di dimora, rientro notturno alle firme giornaliere. E oggi, come dicevamo, sono arrivate le condanne in primo grado a 3 anni e mezzo. Allora, la condanna che è arrivata oggi segue la richiesta del PM Rinaudo, ben conosciuto per essere molto attivo nel perseguire il movimento Notav. È appunto richiesta di 4 anni e un mese per tutti gli imputati e 5 anni per uno solo degli imputati. È insomma una condanna che ci aspettavamo, nella misura in cui abbiamo visto in questi anni quanto la procura torinese si accanisse nel perseguire il movimento Notav, nel cercare di separare tra parte buona e parte cattiva, tra virgolette, del movimento. E in particolare poi il giudice del collegio Diamante Minucci si era anche già distinta in altri processi per delle condanne molto dure, però insomma colpisce che siano stati riconosciuti per tutti gli imputati l'accusa di lesioni, nonostante l'accusa stessa, anche la Digos, avessero rimosso diciamo questa imputazione per alcuni degli imputati. Quindi, come vediamo sempre più spesso a Torino, ma non solo, riemerge questa figura del concorso morale, per cui tendono a generalizzare tutte le imputazioni. Insomma, per il resto sappiamo che poi, come abbiamo appena visto con il processone, la Cassazione, i gradi superiori, cioè successivi di giudizio, aprono la possibilità comunque che vengano riviste sia le pene che insomma proprio la valutazione degli episodi contestati. Però la forza del movimento Notav è sempre quella di accogliere queste condanne, sapendo che rientrano nel grande sistema Tav che ben conosciamo. In questi giorni è uscito un dossier d'inchiesta su Notav Info sui legami tra il PM Padalino, l'altra figura storicamente di attacco al movimento in Val di Susa, con legami appunto con avvocati del fronte FITAV, vari carabinieri e tutto il sistema. E tornando alla condanna, quindi possiamo dire che la procura ha criminalizzato i militanti Notav ingigantendo le accuse a vostro carico. Un esempio che leggevo sulla pagina Notav Info è quella che un'azione di disturbo è stata talmente tanto ingigantita da farla diventare un'azione militare. Sì, queste sono le scelte linguistiche significative che la procura opera sempre. L'iniziativa del 5 settembre, come tutte quelle che hanno luogo in Val di Susa, si inseriscono in una storia ormai trentennale di un movimento popolare ampio, trasversale, eterogeneo, che ha sempre avuto la sua forza nel riconoscere anche le punte più avanzate di contrapposizione a quel progetto. E ovviamente la risposta della procura è sempre stata quella di criminalizzare e penalizzare tutti gli elementi politici della lotta. Io intanto, Valeria, ti ringrazio per la disponibilità, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. No, in questo momento in realtà mi sento di mandare un saluto a Nicolò, che è un compagno di Torino che si trova in carcere per un corteo di questo febbraio. Ancora nel carcere delle Vallette, in realtà un po' l'episodio su cui la procura torinese in questo momento si sta accanendo con maggior forza, quindi invito anche ascoltatrici e ascoltatori a mandargli un saluto, a scrivergli una cartolina se avessero occasione, perché appunto è l'ultimo episodio più esemplare di criminalizzazione di un movimento. Valeria, compagna del centro sociale Ascatasune, militante Notav, grazie per essere stata con noi. Vi ringrazio, un saluto. E rieccoci ai microfoni di Radio Wombat, continuiamo con la rassegna stampa di questa settimana e arriviamo sempre, rimaniamo sempre su Radio Onda d'Urto per altre condanne purtroppo di cui Radio Onda d'Urto ci dà conto. Notizia del 29 giugno, anche qui esattamente nello stesso giorno, Marocco, condannati leader e attivisti delle proteste popolari del 2016 nel Rif. Vi leggo l'articolo e poi anche qua abbiamo un'intervista che ci ascolteremo. Venerdì 29 giugno, pesantissime condanne sono state pronunciate dal Tribunale di Casablanca nei confronti di leader e attivisti delle proteste popolari del 2016 nel Rif. In 53 dovevano rispondere della grave accusa di attentato all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale per aver guidato e partecipato alle mobilitazioni che denunciavano la marginalizzazione e l'abbandono economico della regione. Al pronunciamento della sentenza, gli imputati erano assenti perché avevano deciso di boicottare le udienze per palesare la parzialità dei giudici. Il verdetto ha sciolto ogni dubbio, condanne da 1 a 20 anni per un totale di oltre 3 secoli di carcere. Le proteste per il lavoro e migliori condizioni di vita si erano poi allargate anche ad altre aree del paese, ma la monarchia aveva risposto con violenza. Le manifestazioni e i raduni erano stati dispersi con la forza e centinaia di oppositori erano finiti in manette. Ma nonostante la stretta, la popolazione aveva poi continuato ad organizzarsi per poi proseguire la lotta adottando nuove strategie per sfuggire al controllo, ma soprattutto alla repressione del regime. Un boicottaggio popolare si è diffuso in tutto il paese dalla fine di aprile. Nel mirino ci sono le aziende considerate vicine o legate all'autorità, molte delle quali hanno visto ridurre sensibilmente i propri profitti, grazie anche all'amplissima adesione. Secondo l'Economist, il 57% dei marocchini lo sta attuando. E l'intervista che ci propone Radio Onda d'Urto è con Chiara Crociati, giornalista del quotidiano Il Manifesto e dell'agenzia Nena News. In adurto andiamo in Marocco, pesantissime sentenze di condanna contro i leader delle proteste popolari del 2016 del Rif contro la marginalizzazione della regione, a cui la dinastia che regge il paese va risposto con repressione e arresti. Accusati di aver attentato all'ordine e alla sicurezza dello Stato, gli attivisti sono stati condannati ad una pena complessiva di oltre 3 secoli di carcere. Alla brutale repressione governativa, proseguita nei mesi, la popolazione locale ha risposto però con il boicottaggio delle multinazionali e delle aziende statali, alcune delle quali ora in crisi. Ne parliamo con Chiara Crociati, giornalista del Manifesto e del portale Nena News. Buongiorno Chiara. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, pochi giorni fa ci sono state una serie di condanne nei confronti dei leader della protesta del Rif, regione settentrionale, montagnosa del Marocco, tradizionalmente repressa e marginalizzata dal governo. E oltre al leader del movimento popolare, così è stato ribattezzato il movimento che è nato lì in questi anni e che è stato condannato a 20 anni, ci sono state altre condanne molto pesanti, quindi parliamo di più di 50 tra attivisti e leader del movimento che sono stati condannati tra 1 e 20 anni. Quindi una repressione molto forte che segue a quella che era stata poi la repressione della piazza, di manifestazioni che sono durate veramente molto a lungo e che sembrava inizialmente aver attirato un po' l'attenzione del governo, in particolare della monarchia, e che però sono state poi concluse con la violenza della polizia, che poi si è anche replicata in altri contesti, come Gerada più recentemente, dove ci sono state altre importanti manifestazioni per il lavoro e per chiedere al governo maggiori interventi economici in quelle zone del Marocco che sono completamente dimenticate. Si parla di un paese a due velocità dove ci sono investimenti importanti lungo la costa, nelle grandi città, ma il resto del paese, quello più rurale, è nella pratica abbandonato. Ecco, si parla proprio di un paese immune dai contagi, anche dalle proteste che negli ultimi 10 anni hanno visto scoppiare in tanti paesi arabi, le cosiddette primavere arabe. Ma il paese però è sempre stato tenuto con una sorta di pugno di ferro da quella che è la monarchia, dalla dinastia regnante, ma c'è la possibilità che si sviluppi un vero anche movimento, ce ne sono numerosi in tutto il paese, ma che ci sia anche magari una sorta di saldatura? Sì, i movimenti ci sono anche caratterizzati per la loro attenzione alle tematiche socio-economiche, che sono poi quelle che tengono insieme le diverse regioni e che fanno mobilitare persone in diverse zone del Marocco. L'altro giorno, dopo le condanne dei leader della protesta del Rif, sono scese in piazza migliaia di persone in diverse città del Marocco, tra cui la stessa Rabat. Quindi un movimento importante c'è. C'è anche però una dura repressione, e questo ha portato anche alcuni a immaginarsi forme diverse di protesta che non sono, diciamo così, arrestabili o reprimibili. E la più significativa è quella che si sta svolgendo ormai dalla fine di aprile e che vede, secondo i dati messi insieme un po' dalla stampa e anche dall'adesione delle persone, il boicottaggio nei confronti di grandi aziende che sono sia locali che francesi, che sono considerate legate al governo o a figure politiche che in questi anni si sono arricchite mentre il resto della popolazione viveva in condizioni molto, molto precarie. E un boicottaggio diffuso che sta coinvolgendo tutto il paese e che non può essere fermato, che non ha una sua leadership, perché ovviamente si tratta di una forma di protesta molto fluida e difficilmente individuabile. E che però sta provocando degli effetti assolutamente interessanti, perché la Danone, che è una delle compagnie francesi nel mirino del boicottaggio popolare, ha pochi mesi ha perso il 50% del mercato del settore in cui lavora, quello agroalimentare, addirittura ha dovuto licenziare degli operai. Questo ovviamente poi crea delle ovvie contraddizioni interne, e lo stesso si può dire per la Total, che ha perso un 10% dei profitti in questi mesi. Quindi è molto interessante quello che sta avvenendo in Marocco, perché c'è una mobilitazione di base molto viva che coinvolge diversi settori della società e anche diverse città e villaggi. Quindi si va dalle città della costa o quelle più turistiche fino alle zone più rurali, come appunto il Rif o Gerada. Dunque una situazione in evoluzione sicuramente da tenere d'occhio, come ci dici tu, Chiara. Intanto ti ringraziamo per il tuo contributo, non so se c'è altro che volevi aggiungere, altro che volevi segnalarci. No, dico solo che di tenerle d'occhio queste forme di protesta, perché in realtà il mondo arabo sta mostrando negli anni successivi a quelle che sono state definite primavere arabe, che in realtà le mobilitazioni non si sono mai fermate, perché gli elementi, i conflitti sociali, le contraddizioni interne sono ancora tutte là. E quindi chi ha dato per morte le primavere arabe lo ha fatto in maniera un po' superficiale e veloce. Si tratta di processi molto lunghi e che continuano a emergere, e il caso del Marocco è uno di questi. Grazie allora Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto e dell'agenzia Nina News. Grazie. Grazie a voi. Una buona giornata, ciao Chiara. Anche a voi, ciao. E rieccoci qua in regia Radio Wombat, e adesso vi allieto un attimo per farvi riprendere da queste prime brutte notizie con un po' di musica, e pazientate, perché si tratta di un live acustico dei Clash, quindi ahimè la qualità è un po' quello che è, ma ne vale comunque la pena. E rieccoci, ritornati sempre qua su Radio Wombat. Vi ricordo i social Wombat, il sito in particolare wombatnoblogs.org, e da quale probabilmente ci state ascoltando in diretta oppure nelle nostre repliche in streaming, oppure state ascoltando il podcast, chissà che state facendo. E poi invece abbiamo anche la casella di posta, la solita, sempre lei, posta wombat@insiberia.net, che potete usare per contattarci. E abbandoniamo per un attimo le radio amiche e arriviamo a un quotidiano, sì, in effetti, comunque un'agenzia stampa di tipo diverso, però il ponte c'era lo stesso perché si tratta di Nena News e prima ci siamo ascoltati proprio un'intervista da una corrispondente di Nena News. Ecco, rimaniamo qui. Nena News, nena-news.it, il sito se volete andare a consultare questo ed altri articoli, ci propone molta roba, ma quello che ho scelto io è un articolo sulla Siria. Siria 45.000 in fuga da Deraa, la Giordania non apre i confini. Articolo del 27 giugno del, ovviamente, 2018. Ve lo vado a leggere. Da 10 giorni la controffensiva governativa sul sud del paese si è intensificata. Raid aerei e ora operazione terrestre. Decine di migliaia di persone stanno scappando, ma Amman tiene chiuse le frontiere. Roma, 27 giugno 2018, Nena News. La battaglia per Deraa, provincia meridionale della Siria, triangolo di terra tra il territorio siriano, la Giordania e il Golan occupato da Israele nel 1967, ha raggiunto il suo apice. Dopo la ripresa di Ghouta Est, da 10 giorni l'esercito governativo ha lanciato un'ampia controffensiva per liberare una delle poche roccaforti rimaste alle posizioni di matrice islamista. Oltre Idlib, dove da anni gli accordi di evacuazione siglati con Damasco ammassano miliziani, qaedisti e jihadisti, Deraa e Gunetra a sud restano controllati dai gruppi armati anti-Assad. Gli attacchi governativi su Deraa sono già cominciati da tempo, almeno un anno fa, ma è in queste ultime settimane che Damasco ha alzato il tiro. Raid aerei ininterrotti da giorni per aprire la strada alla prossima fase, l'ingresso via terra delle truppe dell'esercito regolare. Ieri le truppe hanno ripreso 2 cittadine strategiche e sono arrivate alle porte del capoluogo Deraa. Da alcuni giorni l'aviazione sta lanciando volantini sulla città chiedendo alle milizie armate di arrendersi. Il governo preme per ottenere un'altra vittoria fondamentale, la penultima, forzando l'accordo di Astana tra Russia, Iran e Turchia, che aveva individuato nel sud una delle 4 de-escalation zone dove interrompere i combattimenti. Ma la zona è strategica, soprattutto per la vicinanza al Golan siriano occupato, dove Israele da tempo compie operazioni di sostegno alle milizie di opposizione, secondo quanto affermato dalle Nazioni Unite in rapporti degli anni passati. Tel Aviv ha sempre visto nel sud della Siria la zona più delicata per i propri interessi. Nessuna presenza di forze iraniane e libanesi è ammessa dal governo israeliano, che per raggiungere l'obiettivo che per raggiungere l'obiettivo è da anni impegnata in operazioni aeree e negoziati con Mosca. Dal 19 giugno a oggi si contano almeno 41 morti, di cui 27 civili, e oltre 100 feriti, secondo il bilancio delle opposizioni. Ed è proprio la situazione dei 750.000 residenti nell'area a preoccupare. Ieri le Nazioni Unite hanno denunciato la fuga di almeno 45.000 civili da Deraa, tutti diretti verso il confine giordano nella speranza di attraversarlo e mettersi in salvo dagli scontri. Ma le frontiere giordane sono sigillate ormai da 2 anni. Dopo aver aperto le porte e aver accolto oltre 660.000 rifugiati siriani, di cui l'80% non risiede in campi profughi formali, ma nelle città e i villaggi del paese, a giugno 2016 Amman ha deciso di chiuderle. La decisione è arrivata dopo un attentato terroristico contro un posto di blocco dell'esercito nell'ovest del paese, a poca distanza dai campi profughi dal campo profughi informale di Rukban. Un campo nella terra di nessuno tra Siria e Giordania in mezzo al deserto. Qui erano arrivate 75.000 persone senza aiuti né sostegno. Dopo l'attacco la Giordania ha chiuso i confini e impedito per lungo tempo, in piena estate, alle organizzazioni internazionali di raggiungere Rukban, lasciando decine di migliaia di persone senza cibo né acqua. A monte però, più che il timore di attentati, sta quello per la tenuta sociale interna. L'arrivo di tanti profughi siriani, a cui si aggiungono rifugiati iracheni e afghani, ha destabilizzato un paese già fragile, retto su rapporti clientelari e di clan e sul ruolo di collante della monarchia hascemita. Ma la crisi economica è arrivata fin qui e in tanti hanno iniziato a vedere nei rifugiati siriani la radice dei problemi, perché disposti a lavorare per salari bassi. La Giordania, con 89 rifugiati su 1000 abitanti, è il secondo paese al mondo dopo il Libano per la presenza di profughi in proporzione alla popolazione. Articolo firmato dalla redazione tutta, in qualche modo, di Nena News. E bene, questo è tutto, lasciamo Nena News e la Siria, ma non ci allontaniamo di tanto perché ritorniamo un po' sulle radio amiche, Radio Onda Rossa questa volta, e parliamo della Turchia. Elezioni in Turchia, come tutti saprete, di cui anche i giornali, seppur poco e male, ne hanno parlato. Ma e anche Radio Wombat nella scorsa rassegna stampa ha un po' riassunto quelli che erano i primi risultati. Ci andiamo a ascoltare un piccolo commento, riassunto e aggiornamento sulle elezioni parlamentari in Turchia, fatto da Radio Onda Rossa. In realtà Radio Onda Rossa ha raccolto un lungo speciale che potete andare ad ascoltare per intero sul sito ondarossa.info. Ci sono due speciali, cioè due interviste in particolare di mezz'ora circa l'una, quindi in realtà sono due lunghi interventi. La prima corrispondenza è con Bluto, che ultimamente ha scritto anche a proposito delle truppe italiane in Siria, e la seconda corrispondenza è invece di Murat Çınar, un giornalista turco, che è proprio questa, da questa corrispondenza, qui anche alla rassegna del Wombat, abbiamo tratto un piccolo spezzone da farvi ascoltare, perché purtroppo l'intera corrispondenza di 30 minuti non potevamo farvela sentire, avrebbe riempito tutto lo spazio di oggi, ma abbiamo estrapolato 5 minuti per darvi giusto un'idea. Vi leggo intanto la piccola intro che fa Radio Onda Rossa, e l'articolo è di lunedì 25 giugno. Turchia, Erdogan rieletto, curdi in Parlamento, commenti sulle elezioni. Si sono chiuse le elezioni anticipate chieste dal sultano Erdogan. I cittadini e le cittadine sono state chiamate a votare per il Parlamento e per la Presidenza della Repubblica. La Turchia non cambia e Erdogan è sempre più il padrone di un paese, sempre più nazionalista e autoritario, dato che ha superato il 50% dei voti. Il clima durante le operazioni di voto è stato teso, come ci raccontano i nostri corrispondenti, con brogli, intimidazioni e violenze nei seggi. Il Partito Democratico dei Popoli, HDP, è riuscito, nonostante l'alto sbarramento, a entrare nel Parlamento turco, i deputati, affluenza circa dell'85%. La corrispondenza, appunto, da cui traiamo questa clip è con Murat Çınar, un giornalista turco che in realtà racconta lungamente, molto dettagliatamente, quella che è stata la situazione pre-elettorale e post-elettorale nella Turchia di oggi, e ci racconta tutti i vari schieramenti, i vari partiti che hanno concorso a queste elezioni, come è andata a finire, l'equilibrio che ne è un po' risultato. Noi ci siamo andati a prendere una clip che in realtà invece andava a indagare nel particolare la situazione curda. Senti, invece volevo aprire anche la pagina sui curdi, perché riprendendo anche quanto tu dicevi sui media, leggo su nenanews.it che i curdi, diciamo, l'HDP ha potuto fare una campagna elettorale ovviamente molto difficoltosa, perché leggo che la TV statale ha garantito solo 32 minuti di copertura mediatica all'HDP contro le 180 ore di Erdogan, pensate, e tra l'altro con il leader principale Demirtas costretto a fare campagna elettorale via internet dal carcere dove è ancora recluso. ci hai ricordato prima, oltre 60 parlamentari, giusto? Portano comunque 68 parlamentari in Parlamento. Quali le sfide, sì, quali le nuove sfide per il partito, per l'HDP? Senz'altro, se c'è un vincitore in questa elezione, il vincitore ancora un'altra volta è il Partito Democratico dei Popoli. Nel 2015 ha deciso di presentarsi da solo come partito e sfidare lo sbarramento elettorale, e ha portato nel Parlamento 80 parlamentari nel mese di giugno. Poi per una serie di motivi politici sono state rifatte le elezioni pochi mesi dopo, nel mese di novembre dello stesso anno, e ovviamente ci sono stati numerosi motivi molto validi perché l'HDP perdesse i voti, e comunque ha superato di nuovo lo sbarramento elettorale, ha portato nel Parlamento quasi 70 parlamentari. Questo è il terzo giro elettorale che affronta da solo come partito. Ci ricordi quant'è, sì, la soglia di sbarramento? 10, ok. 10%. Loro sono riusciti a superarla di poco, quindi. Anche questa volta l'hanno superato, credo che abbiano ottenuto quasi 12%, quasi 12% dei voti, okay, quasi. Quindi 68%, poi venerdì vedremo effettivamente i dati ufficiali. 68 parlamentari sono in Parlamento. Allora, per me il vincitore vero, l'unico più grande di questa elezione è questo partito, perché stiamo parlando di un partito che ha 11 parlamentari in carcere. Prima di tutto i due co-presidenti. Uno di questi si è candidato come presidente della Repubblica dal carcere, dove sta da più di 20 mesi. Nonostante tutto, più di 4 milioni di cittadini l'hanno nominato come presidente della Repubblica. Mentre Mohamed Ince, di cui abbiamo parlato prima, ha fatto 100 comizi elettorali, e Demirtaş utilizzava, attraverso le lettere scritte che consegnava ogni giorno ai suoi avvocati, utilizzava soltanto Twitter, ha mandato 3 messaggi audio attraverso il telefono che ha utilizzato per chiamare dal carcere sua moglie sul cellulare, ed ha avuto quasi 10 minuti di intervento televisivo registrato in carcere. Ovviamente ricordiamo che questo partito ha più di 60 sindaci in carcere da più di 2 anni, ricordiamo che migliaia di suoi iscritti militanti sono in carcere, in questo giro elettorale più di 150 militanti sono stati presi in detenzione cautelare, il partito ha subito numerosi attacchi vandalici presso le sue sedi oppure in piazza. E nel giro elettorale del 2015 ricordiamo l'attentato a Diyarbakır che c'è stato durante il comizio elettorale conclusivo del partito. Quindi non esiste in Turchia nessun altro partito che ha dovuto affrontare delle difficoltà del genere, ma credo nel mondo siano pochi partiti. Nonostante questo ha sempre mantenuto il suo linguaggio a favore della pace, a favore della politica parlamentare partitica, e ha portato, nonostante mille difficoltà che parzialmente abbiamo provato a illustrare all'inizio, ha portato in piazza i suoi candidati armeni, rom, socialisti, donne, siriaci, alawiti, sunniti, velati, eccetera. Quindi è stato sin dall'inizio, anche in questo giro elettorale, un partito coraggioso che, con, come hai detto tu, anche con quasi zero, pari a zero, con una copertura televisiva pari a zero quasi, ha fatto i suoi comizi elettorali in diverse città. Quindi se c'è qualcuno che ha vinto le elezioni sono stati questi 68 parlamentari, e sono stati quasi 6 milioni di cittadini che ancora un'altra volta hanno deciso di votare per Demirtaş e per il Partito Democratico dei Popoli. Yeah. We'll Look, I hear the same old, every time I turn on the damn radio, I'm sick of that whole sex, drug, club crap, murder rap, every other song bragging about more cash, same story, same struggle, track after track, like out of everything in life, dumb the only facts, most of these artists are overrated trash, groupies of fans who haven't completed, honing their craft, weave on somebody coattail, getting dragged, one hit wonders and veterans running out of gas, super producers used to pimping new cats, polluting airwave flooding the market, and these sucker MCs off target, rating ability according to SoundScan. When selling lots of records, do not mean you talented. And even through politics, all we really want to hear good rap music. Good rap music. Tight vocals, unique point of view, songwriting exceptional, a little human, some lines that have blessed a few, style with some confidence combined with the truth, simple enough for anyone to relate to, could be exposed to any and all age groups, the type of songs with the vibe that make you, cop the single and the vinyl and the tape too, plus the CD, the DVD, the MP3s and imports from overseas, solo band, commercial, indie, don't really matter just as long as the MCs, master the art of communicating audibly, know how I properly apply thought to a beat, know how I make you laugh, dance, smile, cry, think, plus originality is guaranteed, you'll be good rap music. Good rap music. Good rap music. Tight though, I mean, most of y'all are really in a powerful position and dictating to the people who they should be listening to. You just start supporting the truth. Stop force feeding the public with them fantasy tunes. But if your taste really ain't that musical, well then your record business just ain't for you. And all them dead rapper cameos. Stop that. One dimensional backpack rap. Stop that. Them double CD releases, equivalent to pieces for the love of Jesus. Stop that. Genocide gun clap rap. Stop that. Female bash rap, please. Stop that. And all you underground battle cats, gassed on the internet. Can't make a hit yet. Need to bounce back. Good rap music. Good rap music. Good rap music. Good rap music. Cambiamo completamente argomento, aiutati a rilassarci un attimo, da Bahamadia con Good Rap Music. Cambiamo argomento, appunto, arriviamo a tutt'altro, forse per certi versi altrettanto deprimente, non so, consigli per adolescenti su Instagram, articolo preso da Internazionale, e Internazionale, che sapete, se va, pubblica il suo numero ogni due settimane, quindi settimana, le due settimane che precedono la rassegna stampa del Wombat di oggi, e l'articolo è del 30 giugno in particolare ed è firmato da Taylor Lawrence dell'Atlantic, Stati Uniti. Quando l'anno scorso è andata in terza media, Sophie, 13 anni, dell'Arizona, ha deciso di partire con il piede giusto. Invece di comprare l'ultimo numero di Teen Vogue o cercare consigli su Google, ha cominciato a seguire una serie di account thread su Instagram. Questi account forniscono a migliaia di adolescenti negli Stati Uniti una dose quotidiana di informazioni utili per curare l'acne, trovare un ragazzo, ottenere voti alti ed altro ancora. Hanno nomi come Self Care Is, Self Care Thread o Self Cove, e sono più o meno così. Internazionale ci fa vedere una meravigliosa immaginetta tutta a cuoricini, con Tom di Tom e Jerry, messo dentro un cuore, una roba raccapricciante. Se ve la volete vedere perché siete masochisti, potete andare sul sito internazionale.it. Gli account thread di Instagram esistono da più di un anno, ma negli ultimi sei mesi hanno guadagnato centinaia di migliaia di follower. I giovani hanno bisogno dei thread perché cercano di capire come prendere il controllo della loro vita, dice Sophie. Il nome è stato modificato per via della sua età. Gli adulti sono sempre molto occupati e non vanno spesso su Instagram. I thread non sono per loro. Gli adulti lavorano, non vanno a scuola e non devono affrontare i nostri stessi problemi. Secondo Grace, una quindicenne che usa spesso i thread di autoaiuto, questi account sono utili perché raccolgono tutte le informazioni sotto un'unica sezione. Spesso questi account sono gestiti da adolescenti un po' più grandi o da adulti che vanno all'università. Kimberly Webb, una 19enne del Texas, ha creato centinaia di thread che ha postato su vari account. Il suo account più seguito è cresciuto fino a raggiungere 30.000 follower in pochi mesi. Navigare nel web aperto su siti con pubblicità e pop-up è una perdita di tempo. Web racconta che creare un thread è facile. Per quanto riguarda i contenuti, prende spunto dai temi di cui parla con i suoi amici o da cose con cui ha dovuto fare i conti in passato. Alcune persone mi hanno mandato messaggi privati in cui mi chiedevano come posso farmi degli amici, come posso dare il primo bacio, racconta. Lei e altri amministratori di account thread dicono di essere spesso la prima persona a cui i loro follower si rivolgono per un consiglio. A volte passano diverse ore al giorno a rispondere ai messaggi di adolescenti che chiedono soluzioni ai loro problemi. Webb cerca le risposte guardando video su YouTube e poi condensa il contenuto in piccoli blocchi di informazione che inserisce nei thread. Dice che su Google c'è molta informazione sbagliata e che alcuni YouTuber fidati che si occupano di trucco e benessere danno dei buoni consigli. Webb impiega circa mezz'ora a cercare un thread, un po' di più se c'è bisogno di fare delle ricerche o di guardare video più lunghi. Li realizza quando si annoia a casa o è sul tapis roulant. E almeno per ora non ci guadagna nulla. Le piace crearli e grazie a loro ha trovato nuovi amici. Henrietta Dunfour, una ventenne dello stato della Georgia, ha cominciato a pubblicare thread sul suo account Cleopatra the Fox perché ha capito che funzionano molto bene con l'algoritmo e fanno guadagnare follower, spiega. Quello che ha avuto più successo, spiegava, come sistemare i capelli. Sono afroamericana, quindi ho capelli molto crespi, è difficile tenerli a bada, tendono ad andare in tutte le direzioni. Secondo Dunfour, i thread con i consigli più semplici funzionano meglio. Quello che per un adulto o uno studente universitario può sembrare una questione di semplice buonsenso può essere una novità assoluta per chi ha 12 anni. Sono giovani, credono che mettere un pezzo di carta sotto le ciglia per non sporcarsi con il mascara sia una grande invenzione. Gli adolescenti dicono che farebbero qualsiasi cosa pur di evitare di cercare le risposte ai loro problemi fuori da Instagram. Per loro navigare nel web aperto, soprattutto sui siti con pubblicità e pop-up, è una perdita di tempo. Il formato è più facile da leggere rispetto a Google, per esempio, dice Sophie. Puoi leggere cose più lunghe in blocchi più piccoli, non è come leggere un paragrafo lungo tutto insieme. Certo. Un'altra cosa che considerano positiva è che non devi perdere tempo a cercare in giro perché l'informazione ti viene recapitata in base ai tuoi interessi e a chi segui. Inoltre ispirano più fiducia dei motori di ricerca. Sono più affidabili perché puoi controllare i commenti e chiedere consigli all'autore dell'account, sostiene Grace. Google ormai sembra una cosa formale, mentre i thread hanno un tono più rilassato. Ma alcuni sostengono che la moda abbia già raggiunto il suo apice perché sempre più ragazzi cominciano pigramente a crearli solo per attirare follower. Molti di questi account forniscono soluzioni a problemi che neanche credevo di avere, dice Joyce, una 14enne di New York, e molti consigli sembrano contraddittori o addirittura sbagliati. Credono che l'olio di cocco sia la soluzione ad ogni problema. Ecco, questa è la traduzione di Federico Ferrone, articolo appunto uscito sull'Atlantic e appunto pubblicato su Internazionale nella sua versione in italiano. Fate voi le debite considerazioni e fatevi 5-6 domande. Io quello che vi posso dire è che colgo l'occasione per dirvi che il prossimo fine settimana c'è l'Hack Meeting, l'edizione di quest'anno, del 2018, dell'Hack Meeting, e che quest'anno sarà a Genova al Buridda, e appunto il prossimo fine settimana, quindi dal 6 all'8 luglio. E insomma, se volete un pochino avere dei rapporti con la tecnologia un tantino diversi, e magari anche dei rapporti umani un tantino diversi, un po' meglio, un po' meno demoralizzanti, deprimenti e schizzati, ecco, magari venite e fate un salto ad Hack Meeting. Se volete saperne di più, capire cos'è, magari non sapete neanche di cosa sto parlando, potete andare sul sito hackmeeting.org e farvi tutte le vostre, la vostra cultura, se no chiedetelo a un thread di Instagram, non lo so. No, spero che non ci sia risposta a questa domanda su Instagram. Bene, direi che è tutto per questa rassegna stampa. Vi lascio con un pezzo musicale, giusto per non lasciarvi cadere nel vuoto, e subito dopo la rassegna vi ricordo che continuano i programmi di Radio Wombat, in particolare se ci state ascoltando in diretta o comunque se è l'ora di pranzo, la programmazione del Wombat proseguirà con Senza Frontiere, a seguire Passaggi a Nord-Ovest, e Passaggi a Nord-Ovest e Stampa Rassegnata, poi Fuoco alle Polveri e via via, insomma tutti i programmi del lunedì, oppure le repliche o gli altri programmi se ci state ascoltando in replica. Altrimenti, se ci state ascoltando in podcast e siete pigri, vabbè, andate a ricliccare sul Wombat per continuare l'ascolto dei nostri programmi. Quindi prossimamente, lunedì prossimo non ci sarò io, ma comunque sia continuerà la rassegna stampa del Wombat. Ciao ciao.